Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Federica all'attacco disperato. Federica che cerca di recuperare su Katie Ledecky e su Emma McKeon. Adesso comincia ad aumentare però la progressione dell'azzurra. Arriva a grandissima velocità Federica Pellegrini, riesce a mettersi intorno alla seconda, terza, adesso addirittura in prima posizione. Si sta per realizzare qualcosa di assurdo, qualcosa di incredibile, qualcosa di impensabile. 1:54.73, qualcosa di incredibile. E medaglia d'oro per Federica Pellegrini. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Io non so cosa è successo. Non so, onestamente. Non lo so, devo ancora rendermene conto perché non pensavo fosse possibile, ecco. Però ci ho provato fino alla fine, penso di aver fatto una gara proprio precisa al millimetro. E medaglia d'oro per Federica Pellegrini. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. C'è il tentativo di sorpasso da parte di Gabriele Detti. Sorpasso dell'azzurro in corsia. Passa in corsia numero 7, adesso deve tenere fino alla fine. Gabriele sta per diventare uno dei più grandi di sempre. Uno dei più grandi di sempre. E medaglia d'oro Detti. Assurdo, incredibile, meraviglioso. Grande Gabriele. Grande Gabriele. Gabriele Detti è campione del mondo. Ragazzi, io sono senza parole, oggi sono senza parole. No, non so cosa dire, guarda, davvero. Sono più che felice. Non so che altro dire. Gregorio. Sono contento di essere sul podio insieme. E è stata una gara dura, no? Non ci capivo niente a un certo punto, però lui è stato bravo. Cavolo, lui ha fatto un tempone. Io sono trovato in difficoltà un po' alla fine, però comunque è un podio mondiale. Sono contento. Ragazzi, alla faccia di chi dice gli anni dispari, non succede nulla, non ci sono eventi. Come avete sentito e come sapete, è roba da pelle d'oca nelle piscine di Budapest. È un'estate comunque in cui sono mille argomenti di cui parlare, ma lo spazio va alle emozioni. Oggi sono particolarmente contento perché vedo dall'altra parte del vetro in regia mio amico Valerio Rocchetti, non capita spesso. Giorgio Luca invece lo vedo tutti i giorni, ma gli voglio bene, lo ringrazio, il mio autore. E Dario Ricci pure lo vedo tutti i giorni in redazione, ma adesso beato lui è a Budapest. Ciao Dario! Ciao ragazzi, ciao Carlo. Ciao, e c'è Alessandro Pasini che non poteva non replicare dopo l'intervento di ieri, inviatone del Corriere della Sera, che gli tocca lavorare un sacco. Ciao Ale. Ciao, ma è bello lavorare così. Ascolta, poi sono di fianco a Dario, quindi è ancora più bello. Dimmi una cosa, ma oggi quante pagine devi scrivere? Oggi? Sì. No, non lo so, 10, 8, 20, non 8, lo so, almeno, almeno 8 un una scritta. Un instant book forse, vediamo. Ragazzi, cominciamo per i disinformati. Dario, che è successo stamattina? Noi abbiamo sentito le emozioni, ma ne abbiamo visto e sentito. Racconta. Beh, stamattina è stato il dolce risveglio di Federica, che chiaramente dopo una notte pressoché insonna perché l'adrenalina scorreva ancora a fiumi, però ha conquistato col nono tempo la semifinale dei 100 stile libero, quindi assolutamente prestazioni in leggerezza, in quello che ci ha fatto vedere un pezzetto di quello che sarà il futuro, il suo futuro, perché adesso si apre questa nuova terza fase della carriera, una nuova sfida, e chissà se poi magari potrebbe anche arrivare alla finale oggi, ormai penso che si possa tuffare anche quei braccioli, insomma, dopo quello che ha fatto ieri con Salvagente a Paperella, no? Insomma, sì. Ma sentiamo Dario, già che ci siamo e siamo in cronaca, sentiamo cosa ha detto dopo la semifinale dei 100. Allora, un buon risveglio. Sì, no, devo dire di sì, anche se ovviamente stanotte ho dormito, cioè più che altro ho fatto fatica a addormentarmi, e giustamente. Però stamattina al risveglio mi sono sentita abbastanza bene in acqua e sono contenta di aver centrato questa semi, insomma. Il 100 è un po' una nuova via, ovviamente che non parte da qua, però già essere comunque tra le prime 16 è per me un gran risultato. Però insomma, magari c'è anche la voglia di provare a entrare tra le prime 8. Quello è un po' più difficile, vediamo oggi pomeriggio, adesso un passo alla volta. No, nuova via nel senso che li prendi seriamente adesso? Beh sì, nel senso che comunque adesso comincerò ad allenarmi per preparare al meglio questa gara. Poi il meglio non so cosa possa significare, però sicuramente la nuova via è questa. Allora, i detrattori, che sono moltissimi, e quelli che rosicano, sono tutti invitati. 800240024, perché ovviamente Federica Pellegrini dà fastidio agli invidiosi. Terza fase della carriera, diceva Dario Ricci. Alessandro, monumento vivente, grazie a Dio esiste un personaggio così nello sport italiano. Ma sì, naturalmente. Io sono d'accordo, pensavo già prima, francamente, di ieri, che lei fosse la più grande atleta italiana di sempre. Ieri l'ha detto anche il presidente del CONI Malagò, insomma, me lo ha confermato quello che ha fatto. È la più grande di sempre, poi chiaramente le classifiche lasciano il tempo che trovano, però secondo me un elemento è discriminante, cioè il fatto che lei sia ormai a 29 anni in uno degli sport più usuranti che esistono, avendo battuto almeno tre generazioni di avversari e con dei canini lunghi mezzo metro, quindi non ultima la Ledecky, che veniva da un'imbattibilità mondiale di 12 ore di fila, quindi non vedo che cosa ci sia da rosicare o da invidiare, perché per invidiare bisognerebbe avere le stesse possibilità per poter dire no, lo farei anch'io. Ma tu sai, credo perfettamente, che... Alessandro, essendo il tuo ambiente, che per molti italiani che mandano i messaggi, Valentino Rossi è un evasore fiscale, e quindi Federica Pellegrini è una ballerina da circo, che se non ci fosse la televisione non sarebbe stata così grande, ma dai. No, io credo che si debba sempre distinguere. Purtroppo viviamo sempre, a mio avviso, naturalmente, in una leggera confusione tra il personaggio, che naturalmente può avere delle zone d'ombra, può essere simpatico, antipatico, come ogni persona che incontriamo nella vita, e l'atleta, il quale atleta invece vive in un pianeta, in un ambito del tutto suo. E come atleta Federica Pellegrini è indiscutibile. Poi sulla vita fuori è un'altra faccenda, è chiaro che spesso i due elementi arrivano a coincidere, però non credo che questo debba fare velo. A parte che poi vorrei sapere, secondo me bene. Cosa mai ha fatto. Ragazzi, allora intendiamoci, io sono favorevole ai personaggi di cui sentiamo terribilmente la mancanza nel mondo dello sport, quindi ben vengano superstar fuori dall'acqua, fuori dalla pista, come Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Abbiamo traffico, state con me, perché Alessandro Pasini e ovviamente il nostro inviato Dario Ricci. Poi Dario ha realizzato stamattina una intervista molto interessante all'aggiunta, all'allenatore di Federica. Traffico, torniamo insieme. Tutti convocati. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta... Convocati. Dunque, Federica, come la fenice che ha tatuata sul collo, è rinata diverse volte con vari allenatori che hanno dato stimoli e motivazioni, e io dico che quello che sta facendo adesso è l'impresa più grande che ha mai fatto, cioè più va avanti con il tempo, come diceva giustamente Alessandro Pasini, più è grande, perché il difficile non è arrivare lì, ma puoi restarci, come sapete, e dico una banalità. Allora, Dario Ricci ha realizzato questa intervista stamattina con Giunta, allenatore di Federica. Fede è un atleta di talento e di una determinazione, di una voglia di fare che io onestamente non ho visto nella mia seppur breve carriera da allenatore, e quindi non ha limiti. Io ero sicuro che non avesse neanche limiti nei 200, che ancora potesse far vedere qualcosa di più. E poi dopo è ovvio, sai, nuotare a un sette colli, nuotare a un meeting è una cosa, nuotare in una finale mondiale è un'altra. Per me questo 54,7 che ha nuotato ieri, indipendente poi dal risultato e dalla medaglia, che è l'unica cosa che conta, e tecnicamente vale molto di più dell'1,54,5 che ha nuotato a sette colli, proprio perché il parterre era diverso e quando ti giochi qualcosa di importante è difficile rimanere sereni e poter poi esprimere il 100%. Ragazzi, i grandi campioni vivono per l'ultimo tiro, per l'ultimo calcio di rigore. Questa è Federica Pellegrini. Dario Ricci, raccontami questa coppia Pellegrini Giunta. Guarda, prova a googlare. Se tu provi a googlare ancora oggi il nome di Matteo Giunta, le prime 50 pagine che ti escono sono relative al triangolo amoroso Magnini, Giunta, Pellegrini, no? Perché in realtà poi Matteo Giunta, lo ricordiamo, è dal 2014 il tecnico anche di Federica Pellegrini, seguiva il cugino Filippo Magnini e ha gestito anche le fasi più calde di questa relazione come terzo incomodo. Da ieri, di fatto, da protagonista del gossip è ritornato ad essere quello che probabilmente e soprattutto è sempre stato, cioè un allenatore che si è fatto carico di una fase della carriera comunque complessa della Divina, no? Perché non era più il momento della carriera in cui tutto veniva facile, certo, non era più Roma 2009. Vale quello che ho detto prima, ma va bene Federica che è superstar, che ci illumina, ma cosa ha fatto Detti, Alessandro Pasini? Cosa ha fatto quel ragazzo lì? Allora, per prima cosa ha vinto nel giorno sbagliato, povero, perché potevano fare un altro programma, e questo è per scherzare. Parlando seriamente, Detti ha fatto... sì, perché poi in realtà ha fatto un'impresa mostruosa, insomma. Vincere un mondiale negli 800 con quel gruppo di avversari, no? Cioè Paltrinieri, Sun, stroncato in pieno, e questo Wojtek polacco che ha veramente sorpreso e che diventerà anche un avversario complicato nei 1500. Detti è un grande talento, lo si sapeva nell'ambiente ormai da tempo, era da un anno ormai, no? I bronzi olimpici lo avevano consacrato. Gli serviva questo acuto per uscire definitivamente dal cono d'ombra di Gregorio Paltrinieri, che peraltro cono d'ombra che lui non ha mai sofferto relativo, più di tanto, poi da buon livornese disincantato quale lui, sempre pronto alla battuta, insomma un po' se ne fregava, però sai, era sempre quello che era lo sparring partner del campione olimpico. Oggi Detti è uno dei migliori talenti del mezzofondo in circolazione. È bella anche la sua storia, lui non aveva fatto i mondiali 2 anni fa per una malattia, tra l'altro da ragazzino aveva avuto un incidente che quasi insomma gli impedì di continuare a nuotare, perciò insomma una storia bella, ma è soprattutto uno dei grandi lavoratori di questa Italia che sta veramente su fondo e mezzo fondo, forse rompendo anche alcuni luoghi comuni sugli italiani. Detti scherza molto, dice sempre io sono un fancazzista, no? Ma insomma vorrei vederne di fancazzisti come lui, che invece come lui, Gregorio, i ragazzi del fondo, la Quadarella, no? In realtà questi sono ragazzi che sai cosa? Vale da questo punto di vista vale lo stesso discorso che tra poco riprendiamo, perché non c'è solo Budapest, non c'è solo l'acqua, ma c'è anche la miniera d'oro del nostro sport, che è la scherma, che offre un ricambio generazionale continuo, e questo è un grande tema. Keep in touch, Alessandro Pasini e Dario Ricci, naturalmente ci sentiamo a stretto giro di posta, perché lì non è finita, a Budapest è mondiale di moto. Tra l'altro non è finita. Aspetta. Dimmi, Dario. A rete unificata in chiusura saremo impegnati, io e il Faso, anche nella gara per i giornalisti, quindi mi aspetto la trasmissione a rete unificata, diretta globale. Siamo dentro con gli allenamenti, tra poco ci tuffiamo nel Danubio. Beh, forse è meglio di no, Carlo, perché non è a chi va più veloce, ma è a chi azzecca a chi non annega, a chi non annega, che è a chi azzecca il tempo che dichiara. Per cui quanto dichiarare, un'ora, due ore, non lo so, vediamo un po', 50, vediamo. Bocca al lupo, ragazzi. Ciao. Allora, dicevo non solo acqua d'oro ma anche pedane d'oro. Trilliamo, gioiamo, porca miseria, stiamo come delle furie, cioè facciamo uno sbaglio, subito recupera l'altro fa uno sbaglio, subito si recupera, tutti sbagliamo, perdiamo, ma vinciamo lo stesso, alla grande, ragazzi, dai! Mi ricordo un po' delle Olimpiadi nel 2012, quindi ho ricordato dei bei momenti e per fortuna è venuta la bella scherma e penso che ce la meritiamo tutta. Questa storia è bellissima perché viene con dei compagni di squadra a cui sono legato, quindi siamo felicissimi di aver vinto quest'oro. Fioroni di Modica, Garozzo nell'ordine, quelli che avete sentito. Vincenzo Martucci invece, quello che state per sentire. Ciao Vini. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Si dice degli anni dispari che non ci riservano niente. Alla faccia del non ci riservano niente. Beh, qui stiamo parlando comunque di due settori, il nuoto e la scherma, che obiettivamente sono all'apice da tanti anni, insomma, sono due nicchie, se sì, vogliamo, della sì, nostra Italia che funziona, no? Perché la scherma si basa su 3-4 città piccole, Iesi, eccetera, dove veramente si è, la scherma è un culto, e il nuoto veramente da Sydney, dall'Olimpiade di Sydney, ha raggiunto un'eccellenza incredibile, col povero Castagnetti che non c'è più, ma insomma, certo, con un sistema che funziona, perché poi ovviamente la piscina e la palestra sono due ambiti abbastanza chiusi, no? In questo si differenziano dagli sport che seguo io maggiormente. Ecco Vincenzo, a parte il fatto che mi viene istintivo ed intuitivo il parallelo tra Federica e Roger, eh? A parte sì, questo, sì. A parte stamattina su Sportsnet ne ho scritto, anche perché cioè qualcuno mi contesta, dice il paragone fra la Pellegrini e con Phelps, cioè, invece no, ha completamente sbagliato il paragone con Phelps, perché la Pellegrini non è una cannibale, no, non c'entra non, nulla non in quel senso, no, è una che anzi ha avuto delle sue esperienze, ha avuto delle cadute, ha avuto delle si è rialzate e poi soprattutto sorprende, ecco, Phelps non sorprende, Phelps è uno che lo metti lì e vince. Ma vince, no, vince, ma beh, appunto Vincenzo, quello che dicevo io è la grandezza, quello che a me piace di più in assoluto è la grandezza dell'atleta, non solo longevo nel tempo ma capace di così di distaccarsi dall'apice e di ritornarci, perché è quello che richiede il maggiore sacrificio e le maggiori palle. Io non mi cito, però mi cito, nel senso che stamattina su Sport Senato ho scritto una cosa che chiaramente avranno notato in tantissimi, ma insomma c'è questa mezza parola fede, no? Che compare sia in Federer sia in Federica. Ora, la fede è quella cosa che non devi spiegare, è quella cosa che va oltre, che trascende le nostre umane debolezze. Loro sono degli extraterrestri, hanno qualcosa in più. Oggi parlavo per esempio con Rosolino di questa storia della Pellegrini e lui mi dice guarda che non c'è niente da fare, il campione, questo campione straordinario, parliamo di 10 persone al mondo, no? Che si tramondano nel tempo, Jordan, Maradona, questi personaggi qui, Valentino Rossi, Tomba, e mettete quelli che volete voi, ecco, in questo piccolissimo ristretto numero di persone c'è la parola sogno, che noi questa parola abusiamo della parola sogno, ma il sogno del campione è qualcosa che noi non possiamo capire, cioè come possiamo capire uno come Federer che si ferma a 6 mesi e torna e vince 2 slam su 3 e vince 2 Master 1000 come quelli e rischia di tornare numero 1 del mondo e domina tutti, come possiamo a 36 anni? Assolutamente. Non possiamo capire una come quella Pellegrini. Non assolutamente, ma è questa la loro grandezza, perché ti dico la grandezza, io Phelps lo adoro, per carità, è una leggenda, un'icona dello sport e lo sarà sempre, però non è nell'essere cannibale Bolt. Bravissimo, non è nell'essere cannibale. No, bam, bam, bam, bam, bam. È un'altra cosa. Perché tu devi cadere e puoi avere la forza di tornare lì. Vincenzo, però, allora, io insisto su questo concetto, cioè l'importanza, e mi riferisco anche alla scherma, le grandi schermitrici italiane, i grandi schermitori italiani, da scegli quello che vuoi, come per partire, non so se Vezzali o Montano o Trillini, sì, o chi vuoi tu, al nuoto io insisto sulla necessità dell'essere personaggi, perché questo ha fatto e fa benissimo alla faccia degli invidiosi, che Valentino Rossi è un evasore, Federica Pellegrini è una ballerina, quello che volete voi. Questo ha fatto e fa benissimo lo sport italiano. Ma certo, ma fa benissimo all'Italia, no? Lo sport all'Italia, sì. Perché noi dobbiamo ritornare a essere orgogliosi delle nostre belle cose, che ci sono. Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. Noi dobbiamo cominciare a sventolare le nostre qualità, e quando troviamo qualcuno che sbaglia, che si comporta male, a cominciare dai nostri politici, a picchiarli, a non nominarli mai più, neanche in televisione, non farli più vedere, e a portare avanti le cose belle che abbiamo. Ma questi campioni, questi grandi esempi di fatica. Io fra questi grandi campioni, quando parliamo di tennis, io ci metto sempre la Errani e Lorenzi, perché sono insieme ai campioni epici che hanno la classe cristallina che si riconosce facilmente, sono quelli che ci devono far capire cos'è l'Italia vera, l'Italia che ci siamo dimenticato, quelli delle mondine, quelli degli operai. Sì, però anche quelli, Vincenzo, tutti, anche quelli delle superstar e dei tatuaggi, cioè, delle apparizioni televisive e della bellezza sconfinata come quella di Federica. Cioè, queste sono cose, la bellezza del nostro paese, del nostro essere italiano. Ragazzi, ma anche l'essere che deve venire fuori. Esatto. La creatività vuol dire personalità. Personalità. Personalità vuol anche essere qualche volta mettere fuori squadra uno, litigarci e avere un problema. Ma però poi può essere anche la Di Francesca o la Vezzali, che vanno a Ballando con le Stelle o fanno un'apparizione televisiva o fanno la sfilata di moda. Questo abbiamo bisogno di questi personaggi, di questa personalità. Ciao Vincenzo, grazie, ti abbraccio. Grazie a voi. Ti abbraccio forte come sempre. Riusciamo a fare Mauro, che chiama da casa di Federica, cioè la provincia di Venezia, sì, ascoltatore. Sì, Mauro? Buongiorno, sì, buongiorno. Volevo celebrare Federica perché è il nostro orgoglio, e devo dire che l'amarezza è che probabilmente la celebriamo noi come cittadini e anche un po' le istituzioni la celebrano poco, perché io mi aspetterei un bagno di folla alla Totti quando ha lasciato. Sì, Mauro, niente. Mauro, le istituzioni la celebrano, io però voglio vedere se oggi, ma non è che ci vuole tanto coraggio, se oggi chiama qualcuno invece di quelli che ha qualcosa da dire contro il personaggio Federica Pellegrini. Poi, secondo me, viene sufficientemente celebrata dalle istituzioni, dal pueblo. È chiaro che la standing ovation o il selfie con la Pellegrino vorrebbero tutti. La ringrazio. 800240024 e adesso Borsa e poi di nuovo qui. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su realtà virtuale, realtà aumentata e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. È convocatissimo Aldo D'Alecce, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo dare la mia testimonianza in merito così al personaggio Federica Pellegrini. Sì. Io sono un amante dello sport da sempre, però il mio personaggio preferito come sportivo, diciamo, è Pietro Mennea, no? Con le sue vittorie, sì. Ma anche carattere così schivo e riservato. Pertanto fino a lunedì, mi sembra, la Pellegrini mi stava un po' antipatica. Antipatica perché? Perché per quel suo essere un po' sopra le righe come personaggio pubblico, non come atleta. Pertanto, pur essendo un atleta molto vincente, Mi dico una cosa, cosa c'è di male nell'essere volendo irregolare? Così, è una mia lettura. Poi però cosa è successo? Ecco, perché parto male per poi in realtà cambiare, no? Sì. Non si capisce il personaggio, cosa lei aveva dentro. Hanno fatto un paio di giorni prima, adesso non so esattamente lunedì, martedì, una trasmissione o domenica forse alla RAI, gli irregolari. Sì. In cui hanno fatto vedere invece la Pellegrini donna, cioè la Pellegrini essere umano, oltre che le sue gesta sportive. Sì. Da quel momento io mi sono quasi sentito un po' così, come posso dire, in colpa per non Aldo, aver capito... Ma non la conosceva Federica, cioè è un personaggio di fatto. Io la conoscevo come una persona che è così vincente sì nello sport, ma un po' sopra le righe fuori, anche per le sue storie d'amore, per quei suoi vezzi, tatuaggi, calendari e quant'altro, voglio dire, no? E quindi è questo forse anche la pecca nostra, cioè non capire che un altro che può essere diverso da noi in realtà nasconde anche il suo essere umano. Ma allora, Federica è sempre stata una ragazza semplicissima, sempre stata una ragazza quella che vedete, che sentite, anzi posso dire che non è una che ha la capacità di bucare lo schermo come altri personaggi, da Pantani a Maradona, a Marcello Lippi, cioè quelli che ci sono alcuni personaggi che hanno questo dono della comunicazione, che è innato, è un talento, e ogni volta che aprono la bocca per parlare di qualunque cosa tu li stai a sentire. Ecco, Federica Pellegrini non ha questo dono, però nel suo essere personaggio, io ripeto, caro Aldo, ci vedo un bene per lo sport italiano, non il contrario, perché ha fatto tanto, ha fatto molto bene il fatto di essere personaggio allo sport italiano, non solo grande campionessa, ma personaggio. Che meraviglia, mio amico Tommaso Labate, eccolo lì. Camerata Labate, buongiorno. Allora, io ti buongiorno. Sto salutando e saluto anche il radioascoltatore di Radio 24 da Campomarino, provincia perché? Di Taranto, dove perché? Sto no, per ma io giocare. lo dico per quelli che ci stanno ascoltando e che stanno lavorando, mica come me che mi cazzeggio per radio. Perché sei così stronzo? Ma perché sono così stronzo? No, sono una persona per bene, tant'è che come no? Ci stai raccontando? Che hai detto? No, che sei no, riva ma al io mare. Sto qua per lavorare, non sto sei per lavorare riva al mare. Sto per giocare a distanza di 15 anni e qualcosa il replay della sfida Lazio-Inter del 5 maggio che abbiamo deciso praticamente ieri dopo che abbiamo visto i calendari. Essendo l'ultima giornata del 5 maggio, l'anno prossimo, che ho visto ieri Lazio-Inter, io, il signor Ivan Mazzoletti laziale, il signor Tommaso Dapperi laziale e il signor Giuseppe Falvo interista, giochiamo il 2 contro 2 sulla spiaggia di Campomarino per rifare... E finirà, ti dico, vincerà l'Inter sulla spiaggia. Ma va, solo sulla spiaggia però, eh? Eh beh, solo sulla spiaggia, no. Il resto non ci permetteremo mai. L'Inter vince solo sotto l'ombrellone, la batte. Assolutamente, dove siamo noi? Senti, preparati per una intervista politica, eh? Adesso stiamo aspettando che risponda un signore che mi sa che conosci. Intanto, Alessio della provincia di Venezia, poi ti chiedo di una cosa. Alessio, dica. Sì, buongiorno gente, io sono un conterraneo e anche fan di Federica Pellegrini, l'ascolto da tempo, la penso come lei sull'atleta. Volevo solo darle una chiave di lettura in più quando lei parla di atleta più forte di tutti i tempi, la competitività della disciplina che Federica pratica, nel senso che se noi andiamo a vedere le medaglie singole, probabilmente Valentina Vezzali potrebbe dire qualcosa quando noi facciamo queste analisi, però la competitività che c'è del nuoto, io sono andato a rivedermi prima di Kazan gli avversari della Pellegrini nel 2004, certo, come ci sono tutte nei 2-3-4 anni sempre turnate praticamente, e la grandezza sono le quattro finali è chiaro, ma il problema è che l'anno scorso dopo un quarto posto dove sono successe anche delle cose. Federica è stata troppo signora per dirlo. Ma ragazzi, allora, questo sta nel capitolo, Alessio, questo sta nel capitolo di qui sopra. Gli italiani sono rosiconi. Tommaso Labate, lo chiedo anche. Sottoscrivo. No, lo dico. Sono allora, rosiconi. Io lo dico, sono per mia natura, diciamo, balotelliano e cassaniano. Il che questo vuol dire che sono tu stato. Tu sai che nei stai momenti... sfondando una porta aperta. Lo so. Ecco. E sono stato nei momenti bui pellegriniano. Il che ti porta, ovviamente, essendo stato al contrario di quello che diceva Bertolt Brecht, no? Mi sedetti dalla parte del posto del torto perché gli altri posti erano tutti occupati. Ti fa rosicare perché tu sai di esserti seduto dalla parte della ragione quando i posti del torto erano occupati. Io essendo pellegriniano della prima ora mi dispiace un pochino di sentirmi, diciamo, in un posto sempre più angusto, visto che tu ci sei salito il carro vincitore ieri. Aggiungo certo. Solo telegraficamente che a livello di brivido quel tipo di rimonta io l'avevo provato soltanto con un altro, che è l'unico che sono messo per avanza dal punto di vista dello sport italiano, la Pellegrini, negli ultimi 30 anni, che è Alberto Tomba. Un altro seconda che... manche di uno slalom di Lex, se non sbaglio. Dove lui arrivò praticamente primo nella prima manche dopo essere praticamente quasi caduto, aver quasi saltato una porta, e lui, sulla famosa scena di lui che guarda il tabellone, era arrivato primo, aveva fatto il miglior tempo e fece il gesto delle mani. Ma Tommy, tu lo sai che anche Tomba alla fine era sborone per gli italiani. Assolutamente. Allora salutiamo un altro Alberto che conosci bene e preparati per l'intervista politica. Alberto Zaccheroni, buongiorno mister. Buongiorno a voi. Pronto a parlare di politica con Tommaso Labate? Sempre. Eccolo lui. Vai Tommy. Domanda. Ma è vero, a mister Zaccheroni chiedo, ma è vero che ha pesato moltissimo il suo essere, diciamo, come dire, poco moderato, poco di centrodestra nella famosa rottura con Berlusconi che arrivò, diciamo, ricordiamo, all'indomani di un grande scudetto del Milan? È vero o no questa cosa, mister Zaccheroni? No, io sono stato presentato da una testata giornalistica in questo modo, no? All'Inter, al Milan arriva un allenatore interista e di sinistra e comunista. È comunista. Ecco, io, il mio arrivo è stato accompagnato da questa pagina. Però onestamente non so quanto sia andato a incidere, perché i problemi sono sorti su altri aspetti, su altri contenuti. È vero che un alto funzionario del club venne da me un giorno e mi consigliò di dire ai giornali che io non ero comunista, insomma. Ma è comunista, è comunista, no? Questo possiamo dirlo, è comunista, come me, Tommaso Labate, tutti noi, no? Mister? Sì, ci sono. Siamo tutti comunisti, no? Siamo tutti non comunisti. Non so se siamo tutti comunisti. Io non ho mai rinnegato di essere di sinistra, ma sono moderato, non sono proprio a sinistra diciamo che sono su centro sinistra, non è un anarchico come me. Vai Tommy, vai. Mi gioco la seconda domanda, visto che mister Zaccheroni ha parlato di un altro dirigente del Milan che gli ha consigliato di essere più moderato nel dare i suoi, diciamo, i suoi dimostrarsi moderato. Possiamo chiedergli quanti capelli aveva in testa, se ce ne aveva tanti, proprio nessuno, il dirigente del Milan di cui sopra? Non ne aveva tantissimi, ma li aveva. No, ma li aveva. Quindi se vi riferite a Galliani, non era Galliani. Insomma, si vedevano in controluce. Galliani mi ha sempre sostenuto e non poco. No, ma questo lo sappiamo. Galliani sarò sempre riconoscente. Eppure avendo vissuto da 2 anni da separato in casa, lì al Milan, in secondo e terzo anno, stavo per firmare anche per il quarto anno. Poi è arrivato il sarto e la stoffa.

però sì. No, ha ma delle poi, basi più consolidate in questo momento. Sai, sopperisce a uno dei limiti di Sarri, cioè avere il braccino corto con i cambi. Adesso lui conosce bene tutti quanti, quindi è questa la grande forza, il valore aggiunto del Napoli. Sì, sì, beh, adesso qualche cambio certo ce l'ha. Certo, adesso ci può fidare. Mister, grazie. Vuol dire sì. Grazie a voi. Grazie sempre, Alberto Zaccheroni. Allora, 14:56, 35 secondi, abbiamo un bel minuto per Giuseppe dalla provincia di Chieti e poi Roberto da Torino dopo il GR. Giuseppe, dica. Salve, è sempre simpatico Tommaso Labate, mentre il mister invece è sempre pacato e lo ricordiamo sempre bene noi interisti. Comunque, detto questo, volevo parlare della fede, della Federica. Sì. La Federica Pellegrini ieri mi ha emozionato decisamente. Una medaglia era possibile, ma battere la Ledezky era veramente una grandissima impresa. Questo perché io non sono mai stato un suo grandissimo fan, anche se bisogna riconoscere che fra le ragazze perché italiane non, più... Perché non è stato suo fan? Perché da subito si è detto che sarebbe stata una delle più grandi sportive italiane. E quindi ci si è preso, no? Preso da subito, allora, sì, però non dimentichiamo allora, comunque sempre senta, la Vezzali. Senta, grazie al suo intervento, io devo chiudere, se no mi sparano il microfono in faccia. Ci sentiamo dopo il GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Beh, oggi possiamo andare avanti anche tutto il giorno, fino a stasera alle 10. Roberto da Torino, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, buongiorno. Io sono appunto da Torino, sto facendo un po' la figura dello sciocco, perché sto cercando di annusare nell'aria tutto questo profumo di Napoli, ma sappi che qui non è ancora arrivato. Comunque. stai lì che tra poco ne parliamo, stai lì. Quello anzi, che volevo dire... anzi sì. dalla regia, per cortesia, chiamatemi l'ospite. Roberto, stai lì. Sì. Andrea da Brescia, buongiorno. Buongiorno, sarò velocissimo. Ma anche no. Allora, volevo dire tre cose. Una è questa: io i personaggi non li amo, ma li rispetto, perché essere personaggio è comunque una scelta. E sono molto contento per Federica Pellegrini, perché mi ricordo quelli che dopo Londra la davano per morta, si è detto, si è presa di tutto, invece con la costanza e con la forza, con la grandissima serietà d'allenamento, è ritornata a dimostrare che era numero uno. E poi, onestamente, è meglio un personaggio antipatico ma vincente, ma antipatico, che un personaggio antipatico a qualcuno, ma, non a me, devo dire, perché non mi interessa, ma un personaggio indolente e basta. Quindi è meglio Federica Pellegrini, Antonio Cassano. Ma no, ma anche a me è simpatico pure Cassano, cioè che ha sprecato il suo talento in una meravigliosa follia molto divertente, quanto le sue giocate. Io rispetto tutti e due, mi piacciono tutti e due, non capisco antipatico a chi è riferito a Federica Pellegrini. Allora andiamo con un altro tema. Roberto è sempre lì, il nostro prossimo ospite sta arrivando e io vi faccio sentire questa cosa qui. Arrivano voci di grandi squadre come Barcellona, Real Madrid o tutte le squadre grandi, sempre fa piacere, perché vuol dire che uno fa le cose bene. Però poi bisogna vedere quanto sono certe queste cose, perché tante volte quando arriva il mercato si parla di tante cose che a volte alcune non sono certe, altre sì, però queste io non lo so, quindi non sono la persona giusta per dirlo. Thank you. quello lo dovete chiedere alla società per alcune dichiarazioni, però io sono felice qua, mi trovo bene e in questi giorni mi allenerò al massimo per fare una grande stagione. Se arriva un'offerta sarà la società a farmela vedere e saranno loro a dirmi se vogliono che io vado via o no, quindi prima dipende da loro, dopo da me. Da te però tu cosa risponderesti in questo caso? Prima dipende da loro, dopo da me. Vabbè, chi non andrebbe al Barcellona, questo ovviamente Dybala che non respingerebbe certo la corte del Barcellona. Roberto da Torino, ripeta l'affermazione ecco, di prima. No, hai ragione, incomincio a sentire un pochettino più di profumo. Con Dybala profumo... a Barcellona incomincio a sentire un po' di profumo di Napoli, hai ragione tu. Maurizio Crosetti, no. Si sente profumo di Napoli? Beh, io sì, sono in Sicilia, quindi sono abbastanza vicino geograficamente a Napoli, più di quanto sono vicino a Napoli quando sto a Torino, quindi perché no? Un po' di profumo di Napoli, ma si sente anche con Dybala a Torino quest'anno, il profumo del Napoli, secondo me. Ah, Roberto da Torino. È un intenso aroma di caffè. Ma Roberto da Torino non lo sente questo profumo? Roberto, dalla città del Cross. Non lo sento ancora, cavolo. Ma perché... sì, dica. Volevo dire, a parte la battuta, io avevo chiamato veramente per la Pellegrini. Concordo su tutto, immensa, ieri, gigantesca. Volevo fare però un pochettino il cinico. Ma secondo voi non ha semplicemente fatto il suo con la grandissima classe che ha? No, ha fatto il suo? Ha fatto il suo all'inizio, nei primi trionfi con la grandissima classe che ha, però il discorso di prima, no? Quando la grandezza suprema ce l'hai di un atleta, non sto parlando solo della Pellegrini ovviamente, quando cadi e sei capace di risalire, Cross, è inutile, tanto l'Italia è piena di invidiosi, non Roberto, però l'Italia è piena di rosiconi. Pensavo che anche Leonardo da Vinci, quando ha dipinto la Gioconda, solo ha fatto il suo, però era Leonardo. Esattamente così. Senti, Dybala, tornando ad argomenti poco seri, Dybala penso si muoverà da Torino, Bonucci invece si è mosso con buona pace di Allegri dello spogliatoio. Facendo la parodia del grande compianto Vujabosco, mercato finisce quando 31 agosto arriva, questo vale per tutti gli anni, poi dopodiché non credo proprio che la Juve voglia e possa cedere Dybala quest'anno, ma secondo me non finirà la carriera alla Juventus, perché per una serie di ragioni che oggi si incrociano non solo con la storia di Bonucci, ma con tutta una serie di considerazioni su potere d'acquisto, ma potere soprattutto dei giocatori. Non è vero quello che dice Dybala, l'ho sentito, no? Quando dice prima decide la società, poi decido io, poi decide il giocatore. Oggi decide solo il procuratore, è il giocatore. Quindi se c'è un momento in cui un giocatore decide io vado là, lui va là. Sì, questo tutti lo sanno. Tutti lo dicono, perché sappiamo perfettamente che se bussa al Barcellona Dybala è già là, no? Oppure dice facciamo una questione di 1.000 lire in più, 1.000 lire in meno. Ma su Bonucci cosa mi dici? Sei sorpreso della sua partenza? Io all'inizio sono rimasto sbaccalito, come si sbaccalito, dice. Sbaccalito, sì, ci credo. Ma non sono juventino, sono torinese, ma non juventino. So già poi cosa succede, ecco. No, nel senso che ho fatto più o meno la stessa faccia che hanno fatto tanti altri che non pensavano fosse possibile. Però è anche vero che avendo seguito tutte le vicende di cui si è molto parlato tra lui e Allegri, non ero nello spogliatoio di Cardiff, qualcosa anche lì è successo, ma è successo ben prima, nel senso, ma tanto stiamo per tornare, se n'è andato per Porto e non per Cardiff, semmai. Esatto. Tra sgabelli e scortesie e altre cose, altre amenità, e poi l'offerta, e poi l'età del giocatore, e poi la possibilità di realizzare comunque molti soldi da parte della Juve. Io sbaccalì alquanto già quando la Juve si privò di Zidane, ed era Zidane, non era Bonucci. Poi però con i soldi di Zidane ha costruito la squadra da Buffon a Turam, per i rami che ancora vince adesso, quindi non lo so, non me l'aspettavo, però penso che in prospettiva Rugani possa diventare anche più forte di Bonucci, io penso. Sì, ma non è una questione ma poi non è solo questo. No, non è una questione di valore della Juve, non è che perda poi tantissimo, diciamoci la verità, cioè perde chiaramente un grande giocatore, ma non è che perde Maradona, questo facciamo le proporzioni. pur essendo un giocatore importante per lo spogliatoio, pur essendo uno che va a guidare il drappello, e quest'anno andrà con la fascia di capitano in maniera sacrosanta per me nel Milan, a guidare il drappello che chiacchiera con gli arbitri, il famoso comitato d'accoglienza, eccetera eccetera eccetera. Non so se hai sentito prima Zaccheroni, non credo, che sei in vacanza a spassartene in Sicilia. In Sicilia potrei dire di sì, ma sinceramente quello mi sfugge. No, al di là del come fatto, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo del simposio di Platone, no? Letto solo qualche pagina, Zaccheroni sentito solo qualche minuto. No, Zac, a parte il fatto che si è ammesso che tutti quanti siamo comunisti, tutti quanti insieme, lui compreso, comunista, e questo si sapeva, ha detto che l'Inter se la gioca. Se ha detto che siamo tutti comunisti e se c'è perché eravamo io lui e l'abate sappiamo che ha Che Guevara tatuato in testa. Tutti gli uomini sono comunisti, ma fammi capire, che mi ricordo un po' ancora al liceo. Dunque, l'uomo è mortale, tutti gli uomini sono mortali, io sono mortale, tutti siamo comunisti, l'Inter se la gioca, l'Inter è comunista. No, non so se se la gioca, non credo che se la giochi per lo scudetto ancora, poi si vedrà. Maurizio, ti lascio riposare, ti aspetto con Side Cardiff, stiamo per partire lunedì. Sì, l'altro. Si va lunedì, l'altro il 7 per Ferragosto, non prendere impegni perché ho già guardato anche il meteo, diluvierà Cardiff, facciamo meraviglioso. Certo, andiamo in giro nudi su Side Cardiff, se no dov'è la poesia? No, io mi vesto come Bernardeschi, tu puoi essere nudo, io mi metto la gonna e la borsetta, se mi permetti. Guarda, tutta questa gente senza fantasia e senza poesia, io non la sopporto più. Ciao Maurizio. Buongiorno Marco, da Siracusa. Uno delle patrie storiche, dei luoghi sacri della pallanuoto. Una meravigliosa città, con Sandro Campagna. Conosco bene. Siracusano Doc. Sa, quella piscina di Ortigia è uno dei luoghi in cui è nata la pallanuoto italiana, che quest'anno ai mondiali, non benissimo, ma questione di ricambio generazionale. Dica comunque, Marco, tutto quello che vuole. Voglio ricordare Paolo Caldarella, ovviamente, altro Siracusano Doc. Sempre. Niente, io sono juventino, ma qui a Siracusa anche io sento odore di babà. Perché il Napoli è una grande squadra, anche se il maestro di calcio Sarri dovrebbe essere meno superstizioso. Ma Marco, non è questione di superstizione, ma le prendiamo per vere queste dichiarazioni, cioè la prendiamo per oro colato, ma sono cose che non valgono niente, perché tutti conoscono il valore del Napoli e quello della Juve. Secondo me il Napoli si è avvicinato parecchio, la Juventus rimane più forte. E gioca il calcio più bello. Detto questo, però, io volevo intervenire su Cassano. È da te, Carlo Genta, che sei un grande maestro di calcio e di sport. Anche se il tuo grande maestro è anche Marino Bartoletti, altro grande maestro del giornalismo italiano. Detto questo, da te non mi aspetto questa opinione su Cassano. Gran giocatore, però A, non ha vinto nulla. B, mi ricordo ancora quando si è presentato a Madrid in un modo scandaloso. C, mi ricordo i litigi in nazionale. E D, non è stato un calciatore vincente. Ricordo ancora quel meraviglioso gol che fece all'età di 16 anni, 17 anni contro l'Inter, però ti prego, Cassano forse è un giocatore da partite, ma non un vincente. Detto questo, ti saluto. Non un vincente, sì, grazie Marco. Non un vincente, sì, possiamo contare i titoli, certo che contano, possiamo anche vedere dove ha giocato, qual è stato il suo peso specifico, eccetera. È stato un talento per la gran parte sprecato. L'unica cosa insopportabile in questa meravigliosa estate è il fatto di star lì appesi a sta cialtronata del ritorno, e però mi manca la famiglia che sta a 2 chilometri da casa mia. Andrea, provincia di Piacenza, poi Davide da Torino, via Andrea. Buon pomeriggio Carlo, grazie per avermi convocato. Io volevo collegare il discorso della Pellegrini a quello che è stato detto invece ieri su Good Sites, e vorrei parlare di una parola che probabilmente sarei d'accordo con me, la parola omologazione. Sì. Il discorso che si faceva ieri sul fatto che addirittura in nazionale debba indossare tutti le stesse calzature sportive è figlio di un concetto di sport retrogrado e che non guarda ma non, non c'entra nulla. La strada delle cazzature è un'altra cialtronata, ma tra poco tanto torniamo sull'argomento che è molto interessante. È una cialtronata, semplicemente la verità si è detta ieri, e qualcuno in quella nazionale non lo vuole, qualcuno non gradisce la presenza dello zar in quello spogliatoio, che comunque quella squadra vincente non sarà quest'anno, e quindi pazienza, se la sbucino loro. Davide, buongiorno. Carlo, buonasera, è un grandissimo piacere parlare. Sì, no, pronto? No. Eccomi, la sento, no, piacere tutto mio, dica. Ah, ok. E niente, volevo fare due commenti su tutte le cose tragicomiche che succedono attorno all'Inter. Sì. Cioè? Cioè che quando Zaccheroni ha detto quella cosa, io ho messo le mani dove non si dovrebbero mettere. E purtroppo sono sei anni che io all'inizio del campionato sento sempre le stesse cose sull'Inter, tutti quanti alla fine della stagione a dire che questa è una squadra da rifare, poi bastano un paio di risultati, basta l'allenatore, un allenatore per dire boh, l'Inter si riprenderà, tutto il contrario di tutto quello ciò che succede all'Inter. Aspetta Davide, cioè noi stiamo dicendo che l'Inter non è una squadra di Brocchi, non lo era l'anno scorso e non lo è quest'anno, è una squadra che è composta di giocatori che si sono dimostrati dei pessimi professionisti quando sono saltati giù dalla barca, perché sapevano che l'allenatore non sarebbe più stato quello. Però in valore assoluto l'Inter era ed è tuttora, non è questione di allenatore, è questione di società, di tutto il contesto. L'Inter è comunque già una squadra forte che attende dei rafforzamenti che arriveranno. Io non credo, purtroppo sono sei anni che ci azzecco, io non credo a questa cosa, nonostante io pendo dalle tue labbra calcistiche. Zaccheroni ha detto competitiva per lo scudetto, non lo credo neanche io, competitiva per lo scudetto. Assolutamente, certo. Secondo me anche l'Atalanta è superiore all'Inter in questo momento. Se guardiamo il campo, dimentichiamo il campo e parliamo su. Di giornali e parliamo no, di ma di dai, altro. Ma l'Atalanta è meravigliosa, ma come fai a dire che è superiore all'Inter? Su, l'Inter è l'anno scorso. Allora, l'anno scorso ho detto questo, certo, ma perché quelli hanno deciso che non gli fregava niente di giocare, la società, con l'avallo della società, che non ha fatto nulla per evitare questi comportamenti palesemente non professionali dei giocatori, soltanto questo. Davide, ringrazio per tutti i complimenti, per l'intervento, per la compagnia. Allora, vi faccio un parallelo. Tirato per i capelli finché volete, Steaua a Bucarest 1989, Universitate a Craiova 2007, stesso punto di partenza, la Romania per il Milan. Hanno fatto un mercato coraggioso, importante, e me l'aspettavo, perché quando parlavo con la società mi prospettavano la possibilità di fare grosse cose. Sinceramente sono andate anche oltre, sono stati bravissimi i nostri dirigenti ad andare anche oltre, e anche oltre rispetto alle mie aspettative che mi raccontavano. Quindi adesso sta al campo, domani iniziamo una stagione importantissima, abbiamo bisogno di andare assolutamente veloce, perché per gli obiettivi che abbiamo avremo bisogno di più tempo, ma non è possibile, altrimenti non puoi raggiungere certi traguardi. Quindi siamo pronti tutti a questa nuova sfida. La cosa importantissima per noi giocatori che scendiamo in campo, avere il sostegno del pubblico e l'entusiasmo della gente, però penso che va alimentata tutte le settimane, tutte le partite, con le prestazioni, con i valori che mettiamo in campo, e sicuramente solo così il pubblico può continuare a darci una mano. Dunque, apriamo le danze. Universitate a Craiova, certamente non è la finale con la Steaua che citavo prima dell'89, però una curiosità in più, avvio della campagna europea, in questo caso, che parte là da dove era iniziata una grande epopea, cioè dalla Romania. Noi l'avevamo annunciata nei giorni scorsi e ovviamente l'aspettavamo. Eleonora Cottarelli, che è certamente più brava e più in gamba del suo marito sopravvalutatissimo Alessandro Acciato. Se vi sente. Ma come se ci sente? Ma lo sa, a parte che lo sa anche lui, ma poi questa è una pura evidenza. Sto facendo della cronaca, Eleonora. Giusto, giusto, è pura cronaca e bisogna farla. Allora, è giusto così. Certo, ciao, è un buongiorno. Dato di ciao, buongiorno a chi? A tutti. Ah, ciao, buongiorno, sì. Sì, pensavo mi stessi appendendo in faccia. No. Senti, va, si comporta bene, vi comportate bene, no? Lì alla Bobo Summer Cup. Sì, siamo bravi, seguiamo. Molto bello, divertente, un bel po' di gente, dei soldini raccolti per beneficenza, quindi certo. È bello partecipare ad un evento, sì. Così. No, che poi l'altro giorno si parlava con Alciato del fatto che lui va a fare eventi in discoteca, eccetera, eccetera. Ma io starei attento alla Cottarelli più che ad Alciato, perché cioè, tra i due non c'è confronto. Se si parla di attrattività. Mettiamola così, non lo dico, allora, non, anche qui faccio della libera. Non faccio della faccio della cronaca, Eleonora. Senti una cosa, tu che sei pallavolista inside, parlando di Zaitsev, anche l'ascoltatore lo ha fatto, ma crediamo alle favole o alla storia del logo delle scarpe? Ma allora, diciamo che secondo me qua c'è qualcosa che non torna. Il fatto che sia diventato argomento sotto l'ombrellone non so se sia positivo o negativo per il mondo della pallavolo, no? Perché parlare per una cosa che non è positiva non so mai se è una cosa bella. Detto questo, non lo so. Io ho sentito le sue parole, la sua intervista. Mi ha fatto molto specie il fatto che lui abbia detto: non mi ha chiamato nessuno del mio gruppo a parte uno. Al che secondo me è la verità. Parte più sì, è la parte più inquietante secondo me, cioè, perché se io giocassi in un gruppo, in uno sport di squadra, o comunque faccio parte di un gruppo che ha un obiettivo e questo gruppo in un momento di difficoltà, mettiamola così, non venissi chiamato da nessuno, mi farei anch'io delle domande. E vabbè, la risposta la conosciamo ed è quella di cui sopra, che insomma si conosce, cioè è chiaro che a quel gruppo non fa grande piacere la presenza dello zar. Non so quanto questo sia un gruppo vincente, perché Irina Strangelo faceva un'ipotesi 2, oltre a questa faceva un'ipotesi 2, e cioè l'allenatore non convoca il più bravo, così ha già il sederino parato in caso di figuraccio, comunque di europeo deludente, come probabilmente sarà. Allora, diciamo che veniamo da una World League come nazionale non proprio ottima, però mancavano dei nomi che mancheranno anche adesso. Non lo so, non penso che un allenatore ci faccia questi calcoli, cioè voglio pensare che non sia questo il calcolo, altrimenti ci sarebbe dietrologia dappertutto e uno non andrebbe a fare l'allenatore di una nazionale, no? Non accetterebbe questo. No, certo. Non la cosa che mi spiace di più è che nessuno abbia... si è riuscito a trovare una soluzione per una cosa che sembra così banale. Cioè mio figlio 5 anni e mezzo se ne parlava sotto l'ombrellone con i vicini e lui ha detto: ma non trova le scarpe, non può andarsene a comprare un altro paio e non gioca più. Ecco, forse bisognerebbe tornare alle domande semplici dei bambini per trovare una soluzione altrettanto semplice. Ma sai, Eleonora, abbiamo ormai ovviamente il tuo figlio che è intelligentissimo, magari crede ancora a Babbo Natale, noi abbiamo smesso da qualche mese insomma di credere a Babbo Natale. Ascolta, ti volevo chiedere ancora questo. Federica, quest'estate è meravigliosa, Pellegrini ovviamente, e l'invidia degli italiani come la leggi? Invidia per lei? Perché sì, non invidia credevano perché... più in lei? No, perché è personaggio e perché i tatuaggi, perché in fondo, diceva un illustre ascoltatore prima, ha fatto semplicemente quello che il suo talento le ha permesso di fare. No, assolutamente no. Lei ogni volta che c'è stata una polemica o che qualcuno ha mostrato invidia dentro o fuori dal suo ambiente ha risposto con una medaglia. Non ha avuto la fortuna olimpica che si sarebbe meritata, secondo me. Ma il talento non basta, cioè il talento bisogna allenarlo, è fatica. Cioè, se tutti quanti quelli col talento avessero fatto. E allora Cassano avrebbe vinto 3 mondiali da solo, mia cara Eleonora Cottarelli. E torniamo lì dove dovevo andare, no, ma poi che noi siamo costretti, facciamo sto mestiere. L'altra sera ero lì che alle 11 scrivevo sta roba su Cassano e dico ma ti pare che io a fine luglio devo essere qui, ma l'ho anche detto a seguire ste non mi viene la parola, non vado, fermo, non mi indecisione, sì. E ho la famiglia lontana a Genova, perché Genova-Verona è distanza incolmabile, soprattutto non c'è possibilità, c'è il muro di Berlino in mezzo, Cottarelli. Anche tuo marito, fate fatica a non vedervi quando ci sono i mondiali, queste robe qui, 3 settimane, io non ci vado ai mondiali. Il mio motto è: più sei lontano e più ti amo, va bene come motto? Quindi alzato lo lascio libero di andare. Va bene, io è con questa tua frase che chiudo la trasmissione. Ciao Leonora. Ciao. Giorgio De Luca, nostro autore, il mio amico Valerio Rocchetti, che meraviglia in regia. Spero di rimanere, ti vedo anche domani, guarda. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Salute.